Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. I 400 24, buongiorno, parliamo di politica con grande difficoltà. Zoppichiamo un poco perché i grandi titoli non sono sulle elezioni europee, sulla crisi della giunta siciliana, sui rapporti e le relazioni tra i partiti, sulle idee, sulle grandi questioni che verranno affrontate tra poco dal governatore della Banca d'Italia, dal capo dell'antitrust. No, i grandi titoli non sono decisamente sul destino dell'Europa. I grandi titoli sono su cose diverse. Abbiamo il giusto risentimento dei figli di Berlusconi contro Dario Franceschini, il capo del Partito Democratico, che ha fatto una gaffe bestiale. Ha portato, diciamo, il cuore di un attacco politico molto rognoso, molto personale, di un'asprezza senza precedenti alla capacità educativa di Berlusconi, inteso come padre dei suoi 5 figli. Ma insomma, e si è beccato appunto in risposta così lo stato attonito di una parte larga, credo, dell'opinione pubblica e la risposta inorgoglita dei figli di Berlusconi. Ma questa è politica? Ma chissà, forse sì, forse no. Poi c'è la stampa estera che in forte sincronia intorno a questo caso Noemi notorio, e cioè una questione di cui non si capisce però la sostanza, dal momento che non c'è un flirt con una minorenne, non c'è un fidanzamento segreto del premier con Noemi, ci sono solo atti pubblici di favore, di simpatia e di patronage nei confronti di una ragazza accompagnata o autorizzata dai genitori, accompagnata da un'amica. Quindi non c'è la sostanza, il busillis, però c'è il caso che viene continuamente alimentato. Oggi c'è addirittura una sublime intervista con la zia di Noemi, prima il fidanzatino. Adesso pensate quanta roba ancora può venire fuori da Napoli, da Casoria, da Secondigliano, da Posillipo, da non so dove. Quindi voglio dire, in questa situazione tutto si complica se si vuole parlare di politica, eppure si deve, eppur si muove la politica. Perché? Perché adesso prendiamola seriamente. Il premier non sta facendo campagna elettorale, o meglio, non sta facendo campagna elettorale in pubblico. Non si può escludere che cominci adesso, che la sua tattica sia una tattica di ritardo dell'apertura delle ostilità, diciamo, di piazza, del contatto pubblico con la sua gente, con gli italiani più in generale, che vorranno avere un rapporto diretto con lui nelle manifestazioni per le europee. Ma insomma, si è detto fino adesso che non lo faceva perché appunto era travolto da questa ondata di discredito costruita intorno a lui e al suo stile di vita. Cioè, il premier dice: io non voglio sottopormi al giudizio sul mio stile di vita in un momento così, diciamo, di così fervoroso attacco alla mia persona, alle cose che faccio, alle amicizie che coltivo, al mio rapporto con mia moglie, alla questione del divorzio da cui poi tutto è nato. E quindi questo è un punto importante. Allora la gente si chiede: ma i sondaggi come sono? Va bene, va male? Perché Berlusconi fino a 25 giorni fa era il vincitore assoluto, il cavaliere senza macchia e senza paura, l'uomo che avrebbe raccolto un'altra messe di voti di nuovo sia alle europee sia nelle amministrative, avrebbe aperto definitivamente la crisi del Partito Democratico e poi forse persino avrebbe diciamo vinto con il sì, con un sì corale, unanime, un po' assurdo, surreale, un referendum che gli avrebbe consentito veramente di diventare dominus per chissà quanto tempo, perché il referendum cambia la legge elettorale nel senso che il partito che ha più voti prende il premio di maggioranza da solo, senza bisogno di coalizzarsi con qualcuno. Allora, insomma, poi c'è il fenomeno Fini che continua, diciamo, a esistere, nel senso che Fini lo ha detto, l'ha fatto sapere, non è che si ritiene vincolato a scadenze ravvicinate, è il suo stile, il suo modo di fare il Presidente della Camera e di essere parte di questo popolo delle libertà, con le sue idee, che sono poi le idee sostanzialmente, diciamo, di una cultura liberal-democratica alla quale è estraneo fondamentalmente gran parte del corpo della destra populista italiana. E questo pure è un altro problema politico molto notevole: come reagiscono alla presenza, come dire, eretica di Fini, che però è produttiva. Fini ha un asse con il Presidente della Repubblica, un asse naturale, insomma, istituzionale da Presidenza della Camera, e cerca aperture, applausi e alleanze appunto trasversali che scavalcano diciamo, l'ortodossia della maggioranza, di cui pure è espressione. Allora che succede? Che succederà? Come tireremo a campare nei prossimi mesi nella politica italiana? Lo chiediamo a Stefano Cappellini del Riformista, a Fabio Martini della Stampa, a Gianni Pennacchi del Giornale e a Francesco Verderami del Corriere della Sera. Bene, parliamo di politica. Gianni Pennacchi del Giornale, la domanda è semplice, rozza, persino una punta volgare. Quanto conterà lo scandalo Noemi, chiamiamolo così, anche se ripeto, io la sostanza dello scandalo non la vedo, perché dice lo stesso Gino lì, il giovane, che non capisco perché viene adesso attaccato dai berlusconiani, da noi berlusconiani, con questa foga, rapinatore, cattivo, eccetera. Cattivo che? Quello ha detto, ero fidanzato di Noemi, Noemi è andata a una festa e Berlusconi nelle telefonate la trattava come un padre, si informava sui suoi studi. Patronage, non fidanzamento segreto, quindi non ci sono problemi di nessun genere. Però, vabbè. Quello che mi interessa sapere, per parlare di politica e non del caso Noemi, è questo. Quanto conterà questo caso, che campeggia sulle prime pagine dei giornali italiani e internazionali e sul quale le migliori coscienze e anime deontologiche della nostra professione, come Alexander Stille, dicono «Ah, in America veramente c'è un presidente popolarissimo che faceva dei giochi sotto il tavolo dell'Ufficio Ovale». Che, insomma, e ha mentito straordinariamente al paese, è stato smentito dal DNA, insomma, del suo stesso sperma. Quindi diciamo, non credo che Stille ci possa fare tante lezioni. Comunque, com'è la faccenda? La faccenda? Guarda. A me stupisce la sicurezza di commentatori addetti ai lavori che dicono «Ah, basta, è rovinato». Che gliene dicono di tutti quanti i colori, che ne scrivono, sicuri che costui perderà chissà quali e quanti punti. Io sono uno che prende la metro, a Roma la chiamiamo così, e prende gli autobus e sta molto al bar sotto casa e sento le cosa. E certo è una storia che piace questa, perché vorrei ben vedere, cioè, è una bella storia, come la partita di ieri sera, cioè, se ne parla. Quanto però poi possa pesare, leggo che le indiscrezioni dei cosi che dicono che lui teme di perdere, cioè, che ha perso 5 punti di gradimento, poi non so cosa sia in politica il gradimento. Ma perché dovrebbe perdere voti il centrodestra? Perché badate bene, sì, è lui il leader del centro. E poi chi li prenderebbe questi voti? Da chi li perderebbe? Dai veri credenti, quelli che queste storie non così, ma insomma si aspettavano tutti quanti, da Gad Lerner a così, si aspettavano uscite di Santa Madre Chiesa che stigmatizzasse, ma mi sembra che invece se ne sono usciti giustamente, come dice il Vangelo, ognuno faccia i conti. Vede bene anche la scommessa che fanno alcuni commentatori, alcuni la fanno. No, allora dico, secondo me non perde niente. Sì, no, ma loro, la scommessa che loro fanno è che il popolo è fatto così, vuole un padre della patria che si occupa dei suoi interessi. Sul Papi di Noemi è più scettico, diciamo. Ecco, cioè, lo stile di vita di un leader, quando emerge in pubblico, qualunque sia questo stile di vita, diciamo lo separa un po', ecco, dai suoi doveri istituzionali, dalla sua funzione di garante della sicurezza, del futuro, dello sviluppo, cioè è lo spostamento di interesse da storie che riguardano la crisi economica e la vita degli italiani alle storie che riguardano la sua vita. Questo può determinare un po' di astensionismo, dicono, di gente che dice «Beh, non ne posso più, me ne sto a casa, vado al mare». Ecco, questo è il punto. Lei non crede? No, per niente. No, bene. Sentiamo Fabio Martini, qual è il suo parere su questo, che è un punto importante perché poi le elezioni sono tra pochissimo. Ma diciamo, una testimonianza da cronista che scarpina dietro a questi signori. Fino a 2 giorni fa il segretario del Partito Democratico scommetteva su un'idea. Se cavalchiamo l'antiberlusconismo, ricompattiamo le file del nemico e quindi si alza il numero degli elettori. Quindi il nostro 23%, dico un numero così a caso, sì, con l'80% degli elettori resta il 23, ma con il 60 diventa il 27, il 30. E allora c'è un mistero. Che cosa è accaduto? Perché ha cambiato questa idea che sembrava accompagnarlo, che non è detto che fosse quella giusta, perché invece se si ricompattano tutti e due i partiti più forti, è possibile che se ne avvantaggi anche il Partito Democratico. Ma ci sono anche elementi psicologici casuali nella vita, perché noi osservatori pensiamo sempre che i politici siano più razionali, più freddi di quanto siano tutti gli altri. Non è vero, hanno magari pianificano qualcosa ma poi scartano. E allora si può provare a capire quello che è accaduto, perché noi tutti... In definitiva, secondo lei, il peso di questa storia, no? La Noemi story, sulla politica in un futuro ravvicinato, quale sarà? Berlusconi è sicuramente un pochino più fragile in questo momento, questo è un dato obiettivo. D'altra parte, essere colpiti da un divorzio, che è un fatto privato molto sensibile, essere attaccati in questo modo spaventoso, non puoi educare i tuoi figli, insomma è una roba incredibile, no? In relazione al materiale che c'è, l'attacco è smisurato. Allora uno naturalmente ne risente un pochino, no? Ne risente, tant'è vero sulla che... bocca di tutti, eccetera, e non per ragioni... Allora dico, che peso può avere? Scusate, è una domanda banale, ma è la domanda che tutti si fanno oggi. Ma fino a ieri si poteva immaginare che forse una parte di elettorato nel centrodestra ci fosse così, una demotivazione, una piccola parte che però poteva incidere su quelle percentuali che la sera del 7 giugno tutti andranno a scrutare in modo occhiuto. Questa è la sua opinione? No, dopo quello che è accaduto ieri forse qualcosa può cambiare. Cioè la storia dei figli che cambia psicologicamente? Beh sì, perché averli chiamati in causa in modo così maldestro da parte del segretario del Partito Democratico sicuramente non aiuta la campagna. Ma questo Franceschini, Cappellini, non è uno scout, non dovrebbe essere un uomo buono, misurato, attento? Insomma, io me ne ero fatto un'immagine come di un democristiano di sinistra, quindi molto... così con un suo profilo di moralità che tende a... Invece ho visto che sono scatenati la Bindi, come si chiama, lo stesso Enrico Letta che abbiamo avuto qui, che diceva che bisogna costruire una cattedrale, il suo libro eccetera, no, lì tirare sassi, non mettere su mattoni, hanno detto disgustoso qua, disgustoso lì, corruttore morale qui. Ma come mai c'è questa sensibilità particolare del personale politico cattolico? Non riesco a capire, tanto più che sono i cattolici che ci fanno sempre lezioni di laicità e ci dicono che dobbiamo capire tutto, il nuovo modo di essere della famiglia, la sessualità umana, che Ratzinger deve smetterla di occuparsi di queste stupidaggini etiche, che bisogna tornare a una chiesa piena di comprensione che abbracci i tempi moderni. Poi appena succede una storia di stile di vita che emerge, che affiora, perché di più non c'è, diverso dal solito, un po' edonista, ecco, l'anarchia etica famosa di cui aveva parlato Berlusconi in campagna elettorale, giù con botte feroci, insomma, non gli danno manco più la soluzione in confessionale Letta e Labini. Come mai? E Franceschini? Secondo me giocano due ordini di fattori. Da una parte c'è sicuramente una scelta di marketing politico a tavolino, ne parlava poco fa Martini. Si è deciso che l'antiberlusconismo andava in qualche modo rispolverato, e siccome l'antiberlusconismo, come il termine ormai da anni indica, comporta tutta una serie di attacchi anche personali, no? Perché insomma è difficile scindere il Berlusconi uomo imprenditore dal Berlusconi politico presidente del Consiglio. Non ci si può stupire che poi si finisca su questo terreno. Secondo me sui cattolici del PD conta un po' anche un senso di rivalsa, dopo anni in qualche modo di sconfitte, insomma, si sono sentiti molto figli di un dio minore in questo senso, perché effettivamente nel dibattito pubblico sono stati emarginati, sono stati isolati, hanno perso dei rapporti anche con le gerarchie vaticane, con il mondo della Chiesa, anche quello non gerarchico, ma dell'associazionismo, del volontariato. Io credo che in qualche modo forse sia scattato, a parte il ragionamento sull'antiberlusconismo, un senso di di cavalcare l'opportunità di prendersi una rivincita anche su quella parte di mondo cattolico sicuramente maggioritaria che ha guardato e guarda forse tuttora Berlusconi, certo, comunque come al rappresentante migliore dei propri valori, del proprio mondo di idee ideali. Quindi credo che giochi dei propri interessi, direi, non dei anche, propri valori, sì, non anche, credo che ci sia, sì, un investimento, sì, di valore, benché secondo me ci sono la storia delle zie suore, c'è questo confessore Don Zuliani molto simpatico, sì, no, un po' bislacco di 90 anni, bislacco dico nel senso che parla in un modo molto libero, molto spregiudicato. Ma io penso c'è qualche nel caso di Berlusconi ci sono interessi ideali, tutte e due, sì, sicuramente, sì, sì. Penso che contino quasi in egual misura tutto sommato rispetto all'elettorato. Comunque che la Chiesa Berlusconi è stata Verderami. Posso, molto rapidamente, perché volevo dire secondo me quello, sì, che ha pesato veramente su Berlusconi, su questa storia, perché io non ho idea di quanto peserà elettoralmente, penso non molto, credo che alla fine i valori rimarranno quelli delle ultime politiche a grandi linee. Però secondo me Berlusconi ha subito una botta pesantissima, perché lui aveva negli ultimi mesi cercato di portare avanti un progetto per presentarsi come un personaggio nuovo della politica italiana, accreditarsi più come statista, come non voglio dire super partes perché sarebbe, diciamo, dire qualcosa che non ha a che fare con Berlusconi, ma se pensiamo al Berlusconi del terremoto, al Berlusconi che per la prima volta festeggia pubblicamente il 25 aprile, che fa delle aperture anche all'opposizione e sicuramente cerca di mostrarsi come molto meno divisivo del passato, sicuramente molto meno caimano, per dirlo alla Moretti, e molto più invece appunto padre della patria, personalità pubblica in cui possono riconoscersi persino i nemici storici. Ecco, da questo punto di vista, quello che è accaduto nell'arco di un paio di settimane, cioè prima il riprecipitare della questione giudiziaria con il caso Mills, poi questa vicenda Noemi, sicuramente hanno rappresentato, rappresentano un grosso intoppo rispetto a questo. Una brutta botta, insomma. La Chiesa però gli fa da scudo protettivo, Verderami. La Chiesa è un'istituzione, diciamo, che ha una certa sua penetrazione, può contare, vedo la Chiesa, la Compagnia delle Opere, Vittadini, oggi il Corriere della Sera, c'è chi è senza peccato scagli la prima pietra, che insomma è una cosa forte da dire, no? Come dire, è legittimato Berlusconi a comportarsi come desidera, come pensa, i conti li fa con la sua coscienza, questo hanno detto i vescovi. Beh, perché il problema è quello che diceva prima, cioè se parliamo di cattolici c'è proprio... dei cattolici è l'umana comprensione e il confessionale è l'espiazione della colpa e quindi la possibilità di peccare e di redimersi. Nel momento in cui c'è una sentenza definitiva, allora questa possibilità non c'è neppure, come se ci sia una sorta di verdetto, cioè, assoluto. Berlusconi è il pubblicano evangelico, diciamo, che pecca ma ha una coscienza inquieta ed è sempre, benissimo, in rapporto. Mentre, Maddaleno. Mentre i farisei sono quelli... Vabbè. No, il problema secondo me è un altro, che non c'entra purtroppo nulla con la politica. È vero che la politica è in movimento, perché ha ragione quando dice che la crisi siciliana, l'atteggiamento della Lega e tutto il resto. Questa invece secondo me è stata una storia, è una storia oggi con Berlusconi, è una storia che nasce, si sviluppa politica naturalmente, che ha riflessi politici, perché nei sondaggi le oscillazioni in queste quattro settimane di polemiche ci sono state, è una polemica che nasce in famiglia, che si sviluppa in famiglia con un attacco da parte della signora Veronica Lario e una risposta da parte dei figli. Devo dare la pubblicità, ma prima volevo farle una domanda semplicissima. Quando finisce, secondo lei? Una data? Quando, perché molti... Quando finisce? Quando Berlusconi darà una risposta che non sia più io conosco il signor Letizia perché era il l'autista di Craxi. Perché anche in questo caso il problema è nato sia dalla dichiarazione di Veronica Lario, sia, se a mio avviso, dalla leggerezza con la quale Berlusconi ha affrontato questo tema a porta, portandolo in una trasmissione... Il problema sintetizzato dalla battuta di Vergassola, mentire, sì, sapendo di smentire. Perfetto, ma che sia un modo di dirlo impeccabile, inattaccabile. Va bene. Allora, Carla dalla provincia di Modena, buongiorno, 800-24-0024. Sì, Carla, prego. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, signor Giuliano. Buongiorno. Come sta? Bene, grazie. Ho piacere, dica. Volevo farle gli auguri ieri, ma non ci sono riuscita. Ecco, oggi allora, dica tutto. Te li faccio oggi per ieri. Senta, io ho chiamato, ci tenevo a parlare, perché veramente... come donna mi vergogno, va bene, per quel, come devo chiamarlo, buffoncello, qualcosa del genere. Beh, non usi parole che ci compromettono. Chi è il buffoncello? Chi è il buffoncello? Franceschini. Ah, ce l'ha con Franceschini, vabbè, perché Franceschini è di Ferrara, lei è di Modena. No, appunto, per l'amor di Dio. No, senta, io ho dei parenti ferraresi e lo disprezzano nel modo più assoluto. Oh, mamma mia. Ecco. Carla, guardi, cioè, a lei devo mandare subito, dopo questa cosa devo mandare subito Alessio della provincia di Teramo, che almeno mi critica, perché sennò sembro un pazzo. Alessio. Sì, buongiorno, Alessio. La ringrazio per darmi l'opportunità di intervenire. Carissimo. Prego. Sì, beh, la mia telefonata è in direzione esattamente opposta ovviamente a quella della signora che chiamava poc'anzi. Noto con grande dispiacere, perché ho sempre apprezzato questa radio, per il fatto che lei è la seconda trasmissione che fa pro Berlusconi, a difesa di Berlusconi, nell'arco di una settimana. Domani ne faccio una terza. Ecco, mi spetterei da una radio seria come Radio 24 una maggiore... Vuole che mi licenzi, no? Vuole che mi licenzi. Deve scrivere una mail, deve scrivere una mail a Fabi, Gianfranco Fabi. Non faccia vittimismo, Ferrara, non ne ha bisogno. No, è una persona molto intelligente, non ha bisogno di fare il vittimismo, no? Ma non faccio nessun vittimismo, troverò lavoro a Mediaset. Ma il problema non è questo. Ma di continuare a lavorare ancora a Radio 24. Le parli delle cose, no? No, parli delle cose, ci dica il suo parere, su, che è interessante. Sì, ecco, no? Il mio parere è che dovrebbe invitare per par condicio, se non altro, qualcuno che la pensa fortemente in modo contrario al suo pensiero. Chiami Travaglio, chiami Beppe Grillo, chiami qualcuno che la pensa, che avrebbe Travaglio molto Beppe da Grillo, dire. No, Travaglio e Beppe Grillo, mi scusi, io ho uno stomaco, ho capito, non posso. Quindi io posso invitarne tanti altri, però, e li invito anche. Ecco. Vabbè, comunque questa è una critica televisiva più che una critica intorno all'argomento. Sentiamo Irma da Roma. Buongiorno. Irma. Ecco, io voglio essere una voce a favore netto di Berlusconi. È da sempre che io sono a favore di quest'uomo molto sincero, molto spontaneo, che fa delle gaffe, ma tutte perdonabili. E tra cui anche questa. Ero di sinistra, mi sono convertita alla destra grazie a Berlusconi. Dunque, allora, io dico che lo scandalo non sta in quello che ha fatto o non ha fatto Berlusconi, lo scandalo sta in quelli che vogliono a tutti i costi sempre fare gli scandali. E dico che questo è un problema culturale, mettere alla gogna un uomo, costringerlo a confessioni pubbliche indecenti, non appartiene alla nostra tradizione culturale. Viene da altri lidi, per esempio la confessione pubblica è luterana, non cattolica. La legittimità morale e persino legale di scandagliare nel privato delle persone viene dalla tradizione calvinista, non cattolica. Sì, siamo nel quinto centenario della nascita di Calvino. Io dedico molta attenzione al pensiero protestante. È minoritario, ma la confessione pubblica è una cosa molto bella. È una cosa momento. Non privata, quando se ne serve per mettere alla gogna le persone a fini politici, eccetera, eccetera. Io parlo dell'abuso che si fa di certe tradizioni, certo, dell'imitazione pedissequa, ignorante, rozza, che in Italia da qualche decennio... Sono d'accordo, adesso mettiamo il bollino di calvinista su Giuseppe D'Avanzo e siamo a posto. Calvinista, luterano, protestante, eretico, oltre che comunista naturalmente. No, Pennacchi me l'ha tolto sì, beh, le sedute di critica e autocritica del vecchio PC. Grazie Irma. Dunque, vogliamo un momento, diciamo, estendere il campo della nostra... perché altrimenti affondiamo. Verderami. Confini, come si regola, secondo lei, il mondo di Berlusconi e come si dovrebbe regolare? Perché Fini non è un... il caso Noemi prima o poi passerà. Fini resta lì alla presidenza della Camera. Fini non sanno come prenderlo. Perché? Fini non sanno come prenderlo perché Fini gli ha, come dire, lasciato il suo partito e si muove in una... con una libertà di pensiero, un'autonomia che dall'alto della sua carica gli consente di avere dei riflessi enormi di avere un peso, avere un ruolo certamente superiore a quello che avrebbe avuto, che ha avuto quando era vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri. Certo, prima era un numero due, un delfino sempre in attesa di essere promosso, adesso fa da sé, insomma, adesso se la tira giustamente. Se la tira grazie anche, come dire, a una sua forza istituzionale, sì. A sua volta può attingere alla forza istituzionale di Napolitano, col quale gioca evidentemente di sponda, e questo sta creando seri problemi a Berlusconi. Si è detto con rispetto, naturalmente. Con rispetto, naturalmente. Non è che il Presidente della Repubblica gioca a biliardo, fa carambole. La prego, Ferrara, lei consenta le metafore. Consento. E quindi di conseguenza... Però questo è un altro elemento di affaticamento. Pennacchi è un combattente, vedo che non vuole cedere su questo terreno, però... Insomma, allora, in Sicilia fanno tutti assolutamente ciò che desiderano personalmente. Non c'è modo di metterli intorno a un tavolo e di fargli trovare un accordo. Quindi una super maggioranza con un super presidente, un super alleato, l'MPA, Lombardo, eccetera, è saltato tutto, l'azzeramento, guerre interne feroci, eccetera. Il fenomeno Fini, la Lega al Nord che vuole fare dei sorpassini molto pericolosi in Veneto. Però mi scusi Ferrara, posso chiederle sì, una cosa? Sì. Ma, allora, diciamoci tutta, posso dire una cosa? La verità è questa, che oggi c'è Berlusconi, tutto quello a cui stiamo assistendo, queste cose, sono le anticipazioni di quello che sarà nel dopo Berlusconi. Allora, c'è tra il Berlusconi di oggi e il Berlusconi e il non Berlusconi di domani, c'è una fase di passaggio che si stava costruendo, che era quella della stagione delle riforme. Quando Berlusconi diceva, si sentiva e per certi versi era il presidente di tutti gli italiani, 25 aprile, sì. E lui stava per giocare l'asso, cioè la riforma istituzionale. Io penso proprio di sì. E quella sarebbe stata una grossa opportunità. E questo... Le riforme istituzionali sono necessarie al paese, insomma, prima che acquistino credibilità come un vero progetto ce ne vuole. L'ultima volta la Costituzione fu riformata egregiamente, si disse che l'Italia ne sarebbe uscita spaccata e addirittura un referendum ne cassò. Le riforme istituzionali sono un percorso così complicato. Pennacchi, che dice lei? La Sicilia, l'ha vista le notizie dalla Sicilia? Sì, sì, ma quello che continua a stupirmi è appunto che come esistano due realtà. Una è quella che viene percepita dalla gente, che quindi poi sarà quella che si riflette sul voto, ed un'altra che è tutta interna al mondo del potere, della politica, nel quale ci mettiamo anche noi. Beh, tutto quello che succede, che sta succedendo in Sicilia, che normalmente uno avrebbe dovuto dire ma quello è un terremoto, sta là, è la regione più popolosa, più ricca come giro di soldi pubblici, ma insomma sta avvenendo un terremoto. Eppure tutto ciò sul paese e anche sugli stessi siciliani pesa molto meno di quanto pesino le storie di Noemi. Cioè. Allora questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il fattore non è il fattore N o il fattore K, è il fattore B. E finché Berlusconi c'è, è vivo e lotta insieme a noi oppure insieme a loro, non lo so. È con lui che bisogna Martini, siamo quasi al fideismo. Ci dica qualcosa di più razionalistico, diciamo. A proposito no, perché di fideismo. Io mi ricordo al tempo di Craxi, avevo un'amica che era molto craxiana. E io ero stra-craxiano, però le diceva, vabbè, qui mi sembra che ha fatto una stupidaggine, Bettino. E lei diceva, ma se l'ha fatta ci sarà una ragione, no? E questo naturalmente chiude la bocca. Ma c'era sempre una ragione. Ma in tutte le cose, tranne nel caso che ogni tanto precipita sulla storia. Martini, no, qualcosa di non fideistico. E allora vorrei riprendere un tema che mi sembra sia stato sottovalutato, la severità della Chiesa in questi ultimi giorni, l'intervento molto aspro di Avvenire, l'intervento di ieri sulle veline. Ecco, qui c'è un cambio che dovrebbe indurre una qualche preoccupazione. Non perché i voti della Chiesa siano tanti o misurabili, però... Qualcosa è accaduto, perché noi tutti sapevamo fino a poche settimane fa che questo era uno dei governi che aveva il migliore rapporto con il Vaticano e con la CEI in tutto il dopoguerra, forse il migliore, forse il più intenso. Allora lì in quel mondo c'è una tradizione iperrealistica che quando si sente cambiare il vento la mano che ti ha accompagnato fino a poco prima può anche essere la prima che ti abbandona. Allora, chi in questi giorni ha parlato così nelle sacre stanze racconta di due filoni interpretativi. Naturalmente lì è sempre tutto molto sfuggente e dura sempre poco, perché hanno una capacità di cambiare, di adeguarsi alla realtà straordinaria. Però si dice che, ad esempio, la concentrazione di forza, di energia, di potere che Berlusconi ha accumulato in questi mesi mal si concilia con un potere che invece insomma ci tiene a contare. Da questo punto di vista può essere significativo un precedente dimenticato, ma quando sembrò che Massimo D'Alema potesse diventare Presidente della Repubblica, durò qualche giorno, ricordiamo tutti una memorabile intervista di Piero Fassino al Foglio, subito dopo intervenne l'Osservatore Romano e disse il significato era questo: non si può concentrare troppo potere in un uomo solo, e stavamo parlando di Massimo D'Alema ammaccato, insomma, però che si stava preparando a salire lì, e gli fu posto questo argine con questo argomento, che è un argomento, come dire, perenne per quel mondo. L'altro argomento è che lo stile di vita di Berlusconi, troppo platealmente emerso, contrasta con quei principi che loro, diciamo, sia pure a parole o comunque affermano con grande continuità e coerenza da sempre. Ecco, questi due elementi, certo. Accompagnati all'iperrealismo di quel mondo. 800 24 00 24, la politica e gli affari del signor Berlusconi. Secondo lei, Stefano Cappellini, del Riformista, è ipotizzabile un pronunciamento nella maggioranza? Cioè, se la faccenda complicata come si può dire, insomma, della denigrazione di Berlusconi a livello internazionale continuasse, se ci fossero fatti nuovi che insistono, diciamo, sulla incompatibilità del suo stile di vita, ripeto, perché non c'è più di questo, di sostanziale, nello scandalo, con la sua funzione di Presidente del Consiglio. Potrebbero maturare i tempi, magari dopo un risultato, ammettiamo, non particolarmente brillante alle europee. Cioè, perché qui si è sentito dire il dopo Berlusconi, è una cosa quasi surreale, visto che, come ricordava prima Verderami, fino a 20 giorni fa Berlusconi era sugli scudi, insomma, le sue azioni in borsa erano pazzesche, no? La borsa della politica. È possibile? Potrebbe maturare una roba del genere o no, secondo lei? Secondo me no, anche se è vero che molti ci pensano, molti si preparano al dopo, e quindi, essendo in tanti con ambizioni più o meno personali, più o meno di prima fila, a lavorare per il futuro e per il dopo Berlusconi, è chiaro che già adesso si intravedono movimenti, già adesso si capisce che c'è forse anche dentro la maggioranza che in qualche modo pensa di poter lucrare un vantaggio di posizione dalla debolezza di Berlusconi e quindi probabilmente forse è più confortato e rinfrancato rispetto a 20 giorni fa, quando sembrava che Berlusconi appunto viaggiasse sull'onda di un consenso inscalfibile e che fossimo agli esordi di un periodo molto lungo ancora di governo di Berlusconi. Però francamente io penso che sia un po' fantapolitico immaginare che da qui a qualche mese, magari perché il PDL ha preso un punto meno del 40% o perché c'è qualche novità sul fronte della crisi, si possa già immaginare un dopo Berlusconi. Ho letto in questi giorni che ci sono molte voci su tentativi, ipotesi di governo istituzionale, magari legati a un improvviso precipitare della crisi economica, del debito pubblico italiano. Mi sembrano, appunto, ripeto, fantapolitica, però è vera un'altra cosa, appunto, quello che dicevo prima. Cioè, Berlusconi ha fallito forse definitivamente, non lo so, perché la volatilità della situazione è veramente difficile dirlo. Però Berlusconi sicuramente ha ricevuto un brusco stop rispetto a un progetto che comunque aveva un lungo respiro e che prevedeva dei passaggi molto diversi da quelli che si sono verificati. Quindi da questo punto di vista comunque io credo che sia successo qualcosa che lascerà un segno. Massimiliano, dalla provincia di Verona. Buongiorno. Buongiorno. Mi sente, signor Ferrara? Sì, la sento benissimo, sì. Prego. Buongiorno, allora, innanzitutto le faccio i complimenti per la trasmissione. Grazie, grazie. Allora, per come la vedo io non sono mai stato berlusconiano e non condivido l'atteggiamento di Franceschini, che mi preoccupa un altro contesto. Io sono convinto che in questo momento fare politica in Italia, come in tutto il resto del mondo, visto l'attuale situazione di crisi globale che comprende, sia molto molto difficile. Però di fronte al risultato che ha ottenuto Berlusconi, che di fatto vince le elezioni come aveva fatto, mi levo il cappello, e come le porto un esempio, io posso essere tifoso del Milan, l'Inter non mi piace come gioca, però di fatto vince, per cui di fronte al risultato c'è da levarsi di cappello. Quello che mi preoccupa di più, le chiedo la sua opinione, è che più andiamo avanti, più mi rendo conto che in Italia non abbiamo politici, cioè stanno sparendo le figure delle persone capaci di fare politica. Cioè noi avevamo Andreotti e Craxi che avranno fatto quello che hanno fatto, ma erano delle persone che erano capaci di fare politica. In Italia politici non ne abbiamo assolutamente, più andiamo avanti secondo me peggio è. Questo mi preoccupa veramente, perché sinceramente questi atteggiamenti che lui si divide sono affari suoi, che non sia capace di fare il genitore, se mi permette, sono cose che sono affari suoi, a me interessa che sia capace, tra parentesi, a me interessa nel senso che lui là, anche se non l'ha votato o meno, di fare il politico, di risolvere determinati problemi. Questo è quello che è. Invece qua, cioè, secondo me andiamo avanti, cambia destra a sinistra, da sinistra si va a destra. Ho capito, lei dice insufficiente proprio. Nulla, no? Ho capito. Daniel, grazie. La ringrazio, ascolto per radio, buona grazie, giornata. Grazie molte. Daniel da Livorno. Sì, buongiorno. Io volevo sintetizzare la mia lettura di queste scelte politiche, cioè la linea di Franceschini e la linea di Berlusconi. Mentre Franceschini, in maniera abbastanza vile, ed è una storia che si ripete, cavalca sulle disgrazie altrui senza l'idea di un programma, senza l'idea di una valida opposizione, non senza fondamento, perché la vicenda Mills ha comunque una sua valenza, la vicenda Noemi ha comunque una sua valenza, perché sì, vicenda privata, però la signorina Noemi è stata presente a una cena della presidenza del Consiglio, che non credo sia possa sposarsi con la vita pubblica, la vita politica di Berlusconi. Berlusconi è in silenzio, io presumo perché non abbia validi argomenti da opporre a questo sicuramente vile attacco di Franceschini, che comunque darebbe spunto a Berlusconi, se con validi argomenti, di opporsi. In questo momento lui è in silenzio perché probabilmente non riesce o non ha gli argomenti per allontanare. Nella migliore tradizione di Livorno, lei ha dato un paio di legnate a Franceschini e un paio di legnate a Berlusconi. Siete dei grandi legnatori voi a Livorno, questo è noto. Va bene, e io insomma direi che a questo punto un'altra variante importante è. Fino adesso Fini non ha detto nulla sulla storia, diciamo, politica principale, eccetera. Perché? Su quale, scusi? Beh, insomma, sulle storie di vita, diciamo, che sono state rinfacciate a Berlusconi attraverso una campagna di Repubblica, che è un giornale molto finiano. Dottor Ferrara... No, ma io non voglio fare pettegolezzi, dico... No. Io immagino che, come dire, la sfera del privato ognuno la coltivi e la preservi, e credo che questo sia, come dire, il segno di reciprocità ci debba essere, cioè che ognuno si bada al proprio privato. Dire il nome di chi? Di Verderami? Ah, dico il nome di Verderami, non mi fa nessuna difficoltà. Anche quello di Pennacchi, perché stiamo in chiusura e passando da Verderami a Pennacchi, per essere didascalico, vorrei capire una cosa. Questo tra Repubblica dove punta? Che cosa vuole realizzare? Vabbè, si vendono copie pubblicando no, le interviste no, di Casoria, magari ma... fosse soltanto quello. Secondo me intanto c'è il gioco antico dello scontro fra poteri economici forti, cioè, vai, lì c'è un perché signor... questa storia delle domande anglosassoni, ma, che diciamo, tutto c'è, ma dai, ma l'unica c'è. Domanda non c'è in quelle 10 domande. No. E infatti io non so chi abbia stilato quelle 10 domande, ma lei è l'amante di Noemi, quella è la domanda politica, è contro. Dai, tutto il resto non importa niente. Ferrara, lei sta scatenando l'animal instinct di Pennacchi. Chi ha stilato quelle 10 domande all'esame da giornalista non l'avrebbe passato, perché c'è proprio l'unica domanda lo metti all'angolo, cioè quella non gliela fa. Va bene, basta, cioè, espelliamo anche d'avanzo dall'ordine e finiamo questa trasmissione d'avanzo, di oggi. Sì, la fate d'avanzo. Stefano Cappellini, grazie. Fabio Martini, grazie. Gianni Pennacchi, grazie. Francesco Verderami, Grazie. In redazione Franca Fossati e Gloria Guerrero, in regia Alessandro Chiappini e Giorgio Mattè, linea al GR, poi Gianluca Nicoletti con Melog 2.0. Un saluto a tutti voi, un bacio, a domani.